Nova Lab 24. Nova Lab 24. La voce dell'innovazione. Ben arrivati, 16.33, Luca Tremolada con Luca Dell'Oiaco. Ci occupiamo di ambiente, di ecologia, proviamo ad essere un po' più buoni. Proviamo a essere un po' più buoni e a vedere quello che c'è di buono e che si sta costruendo nel mondo dell'ecologia. Perché siamo buoni dentro, però prima le news. Il Dalai Lama ha aperto una pagina sul microblog Twitter. In poche ore 40.000 persone si sono iscritte per ricevere gli aggiornamenti in diretta. Un anno fa era apparso su internet un falso indirizzo della guida spirituale dei buddhisti tibetani, ma in pochi giorni era stato smascherato. Secondo le ultime statistiche, ogni giorno gli utenti di Twitter pubblicano in media 50 milioni di messaggi sul microblog. Passiamo all'editoria digitale. Modificare i contenuti dei testi scolastici durante le lezioni in aula. È la scommessa dei libri digitali lanciati da Macmillan. Ogni docente può eliminare capitoli, selezionare frasi e aggiungere integrazioni. Un mese fa, la casa editrice Macmillan ha sfidato Amazon. È stata la prima a chiedere un cambiamento negli accordi per la vendita di e-book. Prime immagini su YouTube del nuovo centro dati di Apple. La struttura è in costruzione e ha una superficie di 45.000 metri quadrati. Il video è stato girato da un elicottero e diffuso sul web da un agente immobiliare. Il data center darà lavoro a 400 persone in un'area colpita di recente dalla disoccupazione. Le Nazioni Unite prevedono un'invasione di spazzatura elettronica nei paesi in via di sviluppo. Entro il 2020 i rifiuti informatici cresceranno del 500% in India e in Cina i cellulari usati aumenteranno di 7 volte. Secondo le Nazioni Unite i rischi sono legati all'assenza di impianti per lo smaltimento. Gli scarti elettronici vengono inceneriti all'aria aperta generando pericoli per la salute. Eppure, secondo lo studio, è possibile recuperare sul posto i metalli con tecnologie economiche e sostenibili per l'ambiente. Allora, proprio ieri vi parlavamo dei data center, su internet svettano le foto di questo enorme data center di Apple ripreso dagli elicotteri, nessuno sa quali dati ci saranno lì dentro, l'unica cosa che si sa è che consumerà un sacco di energia elettrica. E probabilmente sarà usato, secondo gli esperti, per applicazioni di cloud computing, si chiamano, sono dei dati che vengono conservati presso i server e non presso i computer che ognuno utilizza. Esatto, dati sulla nuvola, sospesi su internet, accessibili ovunque, la grande promessa dell'informatica. Ma anche perché ti ricordo che tempo fa Apple ha comprato l'ALA, che è una radio online che serve per ascoltare musica, e quindi Apple potrebbe anche lanciare nei prossimi mesi delle iniziative di musica online simili anche all'Last FM o altri siti per ascoltare. iPad, vedrai che ne tirerà fuori un'altra, cercherà di fare il botto anche questa volta. Comunque noi siamo in collegamento con Roberta Vecchi, docente dell'Università di Milano. Buongiorno. Buongiorno, buon pomeriggio a tutti. Buon pomeriggio, anche perché insomma il tema di queste tre puntate è stato l'ambiente, per cui abbiamo deciso di arrivare ad oggi e parlare con lei perché ci spieghi un attimo come mai anche in una città come Milano l'allarme è sempre costante, ma non solo a Milano, anche in buona parte delle grandi megalopoli italiane, polveri sottili. Poi mi diceva adesso Luca Dell'Oiacovo che a pochi chilometri da qui nel fiume Lambro c'è stato un incidente, sono state riversate nel fiume 600.000 litri di gasolio ed è uno dei più gravi incidenti che siano mai avvenuti in Brianza. Ecco, allora, dottoressa Vecchi, innanzitutto la domanda banale ma doverosa, cioè le polveri sottili si combattono con la domenica a piedi? Dunque, le polveri sottili, quando si parla di polveri sottili stiamo parlando di un problema complesso e quindi trovare soluzioni semplici per problemi complessi è una battaglia abbastanza difficile. È chiaro che dal punto di vista culturale ed educativo le domeniche verdi, la chiusura della pianura padana fanno benissimo. Dal punto di vista però dell'efficacia di questi provvedimenti sui livelli delle polveri, purtroppo i risultati, diciamo, non sono così soddisfacenti. È chiaro, si nota una diminuzione, ma questa diminuzione, poiché è dovuta principalmente a quelle che sono le componenti primarie, cioè direttamente emesse dalle sorgenti in atmosfera, permangono solo finché queste sorgenti rimangono spente, quindi il beneficio è limitato nel tempo. Ecco, però professoressa, di fatto però che cosa succede? Che nelle scorse puntate noi abbiamo ragionato sul il peso, insomma, degli autoveicoli, il peso delle emissioni, cioè abbiamo provato a fare un po' di economia dell'ambiente, però non ne usciamo molto, nel senso che un ragionamento sulle polveri sottili nessuno a livello politico sembra volerlo fare. Perché? Perché è complesso, come dice lei, o perché l'università non dà delle indicazioni chiare? No, l'università, e non solo quelle italiane, insomma, ci sono moltissimi gruppi, tra l'altro anche recentemente si è costituita in Italia la Società Italiana degli Aerosol, quindi di gruppi che lavorano su questa tematica ce ne sono tanti. Le cose che si sanno sono, diciamo, sicuramente di livello e a livello dei gruppi internazionali. Il problema è che affrontare, diciamo, la parte legata all'abbattimento di questo inquinante è davvero un problema complesso. Le spiego due o tre cose che spesso vengono dimenticate quando si parla di polveri sottili. Innanzitutto noi ci immaginiamo che queste particelle siano solamente quelle che vengono emesse per esempio dal tubo di scappamento piuttosto che dal camino di casa nostra e che siano emesse direttamente come particelle in quanto tale. In realtà c'è una complicazione legata al fatto che anche i gas che vengono emessi dalle varie sorgenti si possono trasformare in particella una volta che sono in atmosfera. Quindi vanno controllate e le emissioni del particolato cosiddetto primario e anche però quelle degli inquinanti gassosi, altrimenti la partita è persa in partenza. Tenga presente che nella proporzione del PM10, il fatidico PM10 che ormai tutti i giorni sentiamo nominare, più o meno abbiamo un 40-45% di particolato che è primario, cioè immesso in atmosfera direttamente, e un 50-55% che si forma dopo, a partire dai gas. E dottoressa, è vero che per i bambini ci sono più rischi perché le polveri sottili tendono a restare negli strati più bassi? Sì, le polveri sottili, diciamo, in realtà se uno è più vicino alla sorgente è chiaro, se si parla di area urbana, che c'è un problema maggiore. Io non mi occupo di effetti sulla salute, però l'effetto sui bambini è stato studiato da molti gruppi ed effettivamente si riscontra un'incidenza maggiore. Però dicevo, uno degli aspetti è questo della formazione di particelle secondarie in atmosfera e che quindi sono difficilmente controllabili se non si agisce anche sui gas. E la seconda cosa che non bisogna mai dimenticare è che stiamo parlando di particelle molto piccole in dimensioni e che hanno tempi di permanenza in atmosfera, in un'atmosfera come quella della nostra Valpadana, dell'ordine dei giorni o della settimana. E dal suo punto di vista quali sono le misure che dovrebbero invece essere prese più urgentemente? Dal punto di vista dell'abbattimento, sicuramente, diciamo, bisogna continuare con la campagna del rinnovo del parco macchine, i filtri antiparticolato, la catalizzazione anche molto importante per tenere sotto controllo i gas. Questo per quanto riguarda la parte traffico. Poi abbiamo tutta la parte legata al riscaldamento e qui c'è un lavoro da fare sicuramente sugli impianti di riscaldamento, sulle vecchie caldaie. Sì, noi lo abbiamo anche detto e questo poi di fatto è la voce più importante, forse più dell'auto. Sì, ma in realtà gli inventari di emissione danno un 30% per il riscaldamento nel periodo invernale, che torna anche con i nostri dati sperimentali a campo, e un 30% come primario di traffico. Sempre parlando di primario. Ecco, noi ci siamo chiesti appunto, cioè dall'auto siamo arrivati a poi a che cosa succede all'auto nel momento in cui non funziona più. Professore, stia ad ascoltare perché questa è una storia anche particolare, che è quella del fluff, del... Sì, che sono i residui della frantumazione dei veicoli, sono quelle plastiche che in genere non vengono riutilizzate, però c'è qualcuno che ha trovato un metodo per riutilizzarle. Fluff, tra l'altro, cioè è quello che ciò che rimane dell'auto quando viene insomma ridotta ai minimi termini. Dello Jacopo ha trovato forse l'unico. Sì, certamente il primo. Certamente il primo che riesce a riciclare il car fluff in maniera ecologica. È in collegamento con noi, lui è Davide Gian Cristoforo, buongiorno. Buongiorno a tutti. Buongiorno. L'azienda si chiama Green Fluff. Green Fluff. E adesso sì. Sentiamo una scheda che ci fa capire un po' di che cosa stiamo parlando. Le vecchie automobili sono miniere di metalli, vetro e plastiche. I rottami diventano materie prime da recuperare. Il percorso di demolizione di una vettura è lungo. Nella prima fase, gli addetti prelevano fluidi, liquidi e batterie, poi smontano paraurti, vetri e pneumatici. In seguito, prelevano il motore e le parti di ricambio. Ciò che resta dell'automobile viene compresso in un cubo inviato ai frantumatoi, impianti industriali simili a mulini. Qui raccolgono soprattutto ferro e alluminio. Restano infine residui leggeri come imbottiture, materiali isolanti, guarnizioni e metalli. Insieme costituiscono il Car Fluff. La prima azienda in Italia a recuperare il Car Fluff con tecnologie ecologiche a freddo è stata Green Fluff. Ha un impianto negli ex stabilimenti dell'Alfa di Arese e prevede l'apertura di una seconda struttura a Manfredonia in Puglia. Allora, quello che è successo se noi mettiamo car fluff su internet, la prima cosa che emergono sono proteste per il bruciare questi residui, perché sono tossici. Adesso io le faccio la domanda, poi mi risponde subito dopo, chiediamo la linea al traffico. Che fine fanno? Voi riuscite a riciclare tutto, ma che fine fanno tutte le altre macchine che sono in un qualche modo non riciclate in maniera ecologica? Nova Lab 24. 16:46, Luca Tremolada, Luca Dello Jacopo. E ti dicevo, Luca, anche prima che io sono stato lì all'impianto di Green Fluff ed è bello, bello perché si trova sia nell'area industriale di Arese e quindi è un parco di archeologia urbana e poi anche perché all'interno appunto c'è un impianto enorme dove poi vedi questi materiali che vengono messi sul nastro trasportatore e poi vengono selezionati, e quindi è come vedere un processo all'inverso, non è un certo. Processo di costruzione, ma è un processo di selezione, di disgregazione quasi, no? Ecco, Davide Gian Cristoforo, torniamo alla domanda di prima, cioè voi siete nel senso, avete questa modalità di riciclo ecologica a freddo, però la domanda giustamente più logica è e tutti gli altri cosa fanno? Cioè, come viene smaltito? Certo, sì, è chiaro. Allora, intanto bisogna dire che il fluff non è costituito solo da plastiche, è costituito anche da una composizione molto variegata, è costituito da imbottiture, gomma vetro, tessuti, adesivi, vernici, si trova di tutto, dalle monetine fino addirittura, adesso dirò una cosa magari un po' così, ma addirittura preservativi, di tutto si trova, quindi è talmente composita la sua struttura che il recupero stesso ha da sempre portato a non ingegnarsi più di tanto, perché da un punto di vista dell'economicità, della remunerazione, il materiale stesso presentava dei punti a sfavore. Per quanto riguarda poi la tecnologia, se volete ne parliamo dopo, comunque c'è diversa letteratura in rete. Se lei mi chiede cosa se ne fa, è tossico bruciare il fluff? Beh, è tossico perché oltretutto noi abbiamo adottato un tipo di tecnologia a freddo, perché è comprovato che la temperatura superiore ai 48 gradi, quella che appunto viene sottoposta la plastica, provoca inevitabilmente una trasformazione del materiale stesso e quindi crea delle emissioni di sostanze nocive. Da questo principio principio, che era quello un po' scoraggiante, il principio scoraggiante della nostra diciamo avventura, abbiamo ragionato in termini appunto differenti da tutti gli altri. Cosa succede? Lei mi ha fatto la domanda al resto del Carflaff che non arriva qua. Io so che in Europa il Carflaff è considerato tutto pericoloso perché ci sono dei parametri da tener conto per valutarne la pericolosità. Però in Italia non è ancora chiara la normativa, nel senso ci sono delle discariche autorizzate ai rifiuti pericolosi, ci sono degli inceneritori, ci sono delle discariche autorizzate ai rifiuti non pericolosi che è risaputo ritirano anche il Carflaff. Ora sta le discariche autorizzate quante potrebbero essere in Italia all'incirca? Non sono molte, io credo che ce ne siano, non vorrei dire una stupidata, ma sono meno di 5-6. Io so che ce ne sono tantissime invece che ritirano i rifiuti, tra cui anche i nostri, che però sono rifiuti trattati, cioè anche noi produciamo un rifiuto alla fine del trattamento, della separazione, dell'abbassamento delle soglie di pericolosità. Però è meno pericoloso, mi sembra di capire. Scusi, è un rifiuto assolutamente non pericoloso, certo, è un rifiuto che ha addirittura ricevuto il cambio del codice CER. Il codice CER è quello che i rifiuti hanno secondo diciamo un codice, una codifica proprio europea. Il nostro rifiuto cambia il codice da pericoloso in rifiuto non pericoloso. In alcuni casi addirittura siamo riusciti a separare della terra, perché va detto che il Carflaff spesso è stoccato, anzi molto spesso diciamo è di frequente stoccato all'aperto, per cui anche quando viene caricato sui camion, sia che vada in discarico o viene in impianti come il nostro, contiene molta terra. Ebbene, noi siamo riusciti con un sistema di vagliatura, dopo il processo a freddo di cui avete già parlato, anche a dividere il terriccio dalla materia più grossolana. Ecco, quando parliamo del processo a freddo, in effetti parliamo anche di acqua, perché allora, poi... Allora sì, è vero, credo di aver riconosciuto la voce del dottor Dello Jacopo. Sì, sono io. Che è stato qua, sì, un piacere di risentirla. Ecco, noi abbiamo un impianto in più di tanti altri impianti che trattano il rifiuto, cioè noi abbiamo una vasca di flotazione, un impianto di flotazione che in pratica va a togliere gli idrocarburi pericolosi che sono contenuti e sono di cui sono impregnate le spugne che costituiscono, ecco, questa materia composita. Non entriamo troppo sul tecnico perché poi non ci seguono più. A me quello che premeva a capire è che insomma ci sono dei metodi sicuramente ecologici per trattare i rifiuti, che i rifiuti possono anche essere una ricchezza. Anche quelli che in effetti si pensa che non possano essere riutilizzati poi sono una risorsa. Ma anche però l'insufficienza anche da un certo punto di vista di operatori che trattano il rifiuto e lo sfruttano anche a dovere in maniera ecologica, forse è anche bene sottolineare questo. Certo, sì, assolutamente. Noi sappiamo che in Italia si calcolano, si stimano 125.000 tonnellate l'anno per quanto riguarda la produzione di Carflaff. Il nostro impianto è autorizzato alla cifra di cui abbiamo detto. Stando con i piedi per terra, se uno va a fare un calcolo invece basato su altre considerazioni, si può arrivare a stimare una produzione almeno 5 volte superiore a quella che le ho detto. E poi noi stessi non trattiamo 125.000 tonnellate all'anno, perché spesso non perviene tutto il Carflaff pericoloso in Green Fluff. Ultimamente diciamo che abbiamo svolto delle bonifiche piuttosto importanti nel nord-est anche dell'Italia, ci sono state appunto dei grossi conferimenti che arrivano dal Friuli Venezia Giulia. Va bene, grazie Gian Cristofaro. Io volevo un'ultima battuta della professoressa Vecchi. È ancora in linea? Sì, sono qua. Guardi, una battuta rapidissima, il nostro tempo sta finendo. È chiaro che noi non possiamo chiedere, o sarebbe troppo semplicistico chiedere all'università delle soluzioni o di sostituirsi al decisore pubblico, alla politica, ma l'urgenza nelle città, da dove si parte? Qual è la prima cosa da fare? Direi lavorare sui sui veicoli, sui flussi di traffico e, come dicevo, sugli impianti di riscaldamento. Sono le... in modo, nella nostra realtà in particolare, in pianura padana, in modo coordinato, però diciamo, l'esempio della chiusura della pianura padana in modo coordinato è un buon esempio di come si possono anche studiare eventualmente delle soluzioni un po' più a lungo termine. Grazie professoressa, magari poi su questo tema ci ritorniamo, vediamo anche magari di andare oltre la pianura padana. Io ringrazio la professoressa Roberta Vecchi, ringrazio Gian Cristofaro di Green Fluff, Luca Dello Iacovo. Domani ci sentiamo alle 16:30.